Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarvi. Siamo qui sempre live dai nostri studi Risto Radio Convento. Benvenuti da Master Nick, l'abbiamo detto, per raccontarsi, per raccontare. Questo è il nostro motto, è il motivo per cui è nata questa radio, cioè dare spazio ai festeggiati, come diciamo sempre, ai grandi protagonisti di ogni nostro weekend qui al convento di Ronato, di parlarci un po' di loro e di parlarci soprattutto del motivo della loro festa. Abbiamo qui un gruppo di fantastiche ragazze per festeggiare un'occasione speciale. Una di loro, per essere precisi, festeggia un'occasione speciale. Andiamo a chiacchierare un po' con loro. Vai, presentati, come ti chiami? Tu col vestito, Cecilia. Bianco, al microfono, così ti sentiamo. Cecilia. Oh, Cecilia, allora dici un po' da dove vieni. Vengo dalla Romania. Dalla Romania, dove precisamente? Da Roman. Roman, già, sì, giustamente, essendo dalla Romania non puoi non venire da Roman. Giustamente, fossi venuta, che ne so, dalla Moldavia, venivi da Moldav, giustamente, no? Insomma. Beh, la regione è Moldavia. Sì, ad esempio, se fossi venuta dalla Bulgaria, venivi da Bulgar. È tutto così, bene. E cosa ti porta dalla Romania al convento? Al convento. Facciamo la festa al addio al nubilato. Oh, il suo addio nubilato, vai, qua, applausi escrocianti. Eccoli che arrivano anche nella nostra radio. E addio al nubilato per il tuo matrimonio, che sarà a brevissimo, vero? Sì. Quando? Sabato 19 ottobre. Sabato prossimo, pronta quindi per festeggiare con chi sarà il fortunato? Fabian. Oh, Fabian, anche lui rumeno. Sì. Ma adesso vivete qui? Sì, qui a Santa Lucia e a Verona. Ah, quindi siete entrambi più o meno veronesi. Sì. E cosa ti ha portato qui in Italia e cosa a Verona? Lavoro? Caspita, una cosa lunga. Vengo dal convento. Dal convento? Da qui? Dal convento di Verona. Ah. Della città di Verona. Sì. Adesso al addio al nubilato al convento. Mamma mia, che storia. Raccontaci. No, adesso voglio capire di più. Raccontaci meglio. Rimane una cosa riservata. Ah, riservata a pochi. Niente. Va bene. E quindi vi sposerete, ecco, giustamente ricevi sabato prossimo alle ore 16. Alle 16, quindi pomeriggio. Chiesa di San Nicolò all'Arena. Oh, guarda com'è preparata, sembra quasi che sia la sposa. E essere così preparata. So che non sei sola in questa serata, hai tante, non so, amiche. Amiche, parenti, colleghe, chi amiche, sono? Amiche, tutte amiche. Vai, presentacele, così conosciamo anche loro. Cristina, la testimone, una delle testimoni. Ah, che giustamente sta già iniziando a documentare da adesso, perché farà un video di 45 ore sul matrimonio e dovrete sorbirvelo per i prossimi 20 anni. Poi Gabriella. Ok. Un'amica di vecchia data. Teresa, che è sua sorella anche. Cioè, Teresa è la sorella di se stessa? Gabriella. Ah, ok, no, pensavo fosse sorella di se stessa, Teresa. No, ok, quindi anche una sorella, ok? Anna. E Sara. E Sara. E poi sono le altre. C'è Silvana fuori, c'è Fabiana, Cristina Tamar, Marcellina, Monica Relia. Tantissime questa sera, brave. Felici di avervi aiutate a divertirvi, o meglio, speriamo. Allora, è tutto pronto per sabato prossimo? È tutto in ordine o manca ancora qualcosa? Quasi tutto, ma c'è ancora una settimana, quindi le piccole cose, le ultime sono, insomma, servono da fare nell'ultima settimana. Sei carica, entusiasta? Sì, entusiasta, cerco di stare con i piedi per terra e non lasciarmi prendere dalle emozioni. Brava, però guarda che un po' l'emozione aiuta, nel senso, un po' lasciarsi un po' andare e farsi un po' coinvolgere emotivamente dal momento, vedrai che aiuterà sicuramente. Da quanto tempo vi conoscete tu e Fabian? Da 2 anni. Ah, pochissimo. E vi siete conosciuti quindi in Italia? Qui in Italia, sì. E come vi siete conosciuti? Cosa ha fatto scattare? Tutta una storia lunga la tua vita, qualsiasi cosa ti chiedo, tutta storia lunga. No, vabbè, dai, in che occasione? È stata un'amica che è venuta a trovare Fabian, perché a Fabian è morta la moglie 3 anni fa. Ok. Allora, questa amica mia conosceva Fabian perché praticamente il suo cugino di secondo grado, ma la moglie era la sua compagna, ex compagna di classe, a Bacău, in Romania. Ok. E allora si sono incontrati e lì è stata... E tu eri lì per caso? Ho portato loro in Piazza Bra e non so, dopo mezz'anno, insomma, è nato qualcosa. Wow, quindi vedi che dicono che Verona sia la città dell'amore, Piazza Bra e l'Arena vi hanno aiutati. Perché è molto, molto romantico come posto, come zona, no? Sì. Bello. Chi è che ha fatto il primo passo, tu o lui? beh, insomma, lui verso di me mi ha colpito e quindi sono entrata in crisi e poi ho pensato, ripensato, ho detto dai Cecilia, lasciati andare e prova. Oh, brava, e brava. Magari... però il primo passo l'ha fatto lui? Sì, sì. E ti cosa ti ha detto, ti ricordi? Una cosa lunga secondo me. Riservata. Ah, riservata. Bene, bene. Allora, vuoi cogliere l'occasione del microfono per dirgli qualcosa tu? Fabian, ti amo tanto, sei l'uomo della mia vita, sei il migliore di tutti. Oh, bello, senti, vedi che sì, l'emozione a volte aiuta, perché si sentiva tanta emozione. Speciale, come lui non è nessuno. Boh, senti che belle parole, siamo contenti di sentirtele dire e di sentirtele uscire, insomma, dal tuo cuore, perché si sente che sono veramente sincere. Allora, grazie mille Cecilia per aver scelto il convento per festeggiare e grazie e soprattutto le mie amiche. Infatti dicevo, grazie soprattutto alle tue amiche che ci hanno permesso di conoscerti, che è stato veramente bello. Speriamo di aver lasciato un bel ricordo e una bella festa, sì, in questa grazie, serata. Grazie, ok. Grazie a voi. Allora, auguri ancora a Cecilia, grazie, auguri a Fabian e un bel futuro, ma da come ne parlate siamo certi che andrà tutto bene. A presto, ciao! Grazie, ciao.